Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di radio Onde Furlane. Ma andiamo subito con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine, andremo avanti fino alle ore 21:30. Ricordo che questa trasmissione venne condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione dei Friuli e Trieste, e oggi 9 maggio andiamo ora all'ascolto di questa band canadese. Loro sono i Praying Hands, è una band che si è formata subito dopo lo scioglimento dei Ballast, altra band ovviamente canadese, e questo è stato l'unico loro album che hanno fatto nel 2009, che si chiama Through the Dark, e loro sono, come ho detto, i Praying Hands. Thank you. Well, everyone may know. allora bentornati all'ascolto di Zardis Magnetics, giovedì 9 maggio. E, per oggi appunto volevamo iniziare dando così un po' di aggiornamenti, diciamo, sulle vicende repressive tribunalizie e anche alcuni aggiornamenti sul CPR di Gradisca di Sonzo. E iniziamo dalle vicende appunto tribunalizie, e cioè da questa inchiesta della quale abbiamo avuto così notizia in questi giorni, di contro 13 compagni e compagne che hanno dimostrato solidarietà a Stecco durante appunto un'udienza, e ne abbiamo parlato comunque di questo episodio del 19 gennaio di quest'anno. E le imputazioni, appunto le capi di imputazione, sono interruzione di pubblico servizio, oltraggio a magistrato in udienza e resistenza, e insomma è arrivata questa rogna. E oltre a questa rogna, diciamo, ce n'è un'altra, cioè ci sono anche per questa vicenda, nel senso che questa vicenda del 19 gennaio viene citata come motivo scatenante, ci sono stati anche due avvisi orali ai danni di due compagni. E io volevo dire due robe sull'avviso orale, che appunto è questa misura di prevenzione veramente aberrante. È una misura di prevenzione che praticamente viene stabilita dal questore, è praticamente un invito da parte dell'autorità di pubblica sicurezza a cambiare condotta, quindi una sorta di consiglio, diciamo, di quasi un avviso di garanzia. Nel senso che viene messa anche in questa maniera: io stato ti avviso che sei attenzionato, praticamente, e ti avviso che se non cambi condotta puoi incorrere in conseguenze legali. E il questore delega di solito la verbalizzazione di questo avviso orale, cioè del fatto che c'è la procedura di avviso orale, alle forze dell'ordine, e devono passare 60 giorni entro i quali le persone colpite possono presentare memorie, non si sa di che, perché non c'è appunto un'accusa specifica. Dopodiché l'autorità procede con l'applicazione della misura preventiva. Allora, intanto le misure di prevenzione, insomma, sono l'avviso orale e anche la sorveglianza speciale, che invece è già un gradino successivo, insomma, un provvedimento molto più grave, nel senso che l'avviso orale in sé non comporta nessuna restrizione, no? Però è una sorta di minaccia, insomma, che incombe. E queste misure di prevenzione sono state introdotte dallo Stato poco dopo la nascita dello Stato unitario. Poi sono passate, insomma, imperterrite per i diversi cambi di regime, e da ultimo sono state inserite nel codice antimafia. Quindi, da un lato, sono appunto una specie di eredità di un passato pesante che non passa, dall'altro sono in sintonia, diciamo, con le tendenze in atto, cioè con l'espansione del meccanismo della colpa d'autore, per cui si punisce la personalità e l'appartenenza politica, diciamo, del soggetto, e non il comportamento o un reato, insomma, o un reato commesso. Infatti possono essere colpiti da avviso orale anche persone incensurate che non hanno non hanno avuto condanne, non hanno nessun procedimento penale in corso, insomma. E quindi è una misura molto discrezionale, no? E inoltre, insomma, tutte queste, essendo un provvedimento di tipo amministrativo, è anche un escamotage, nel senso che oramai la repressione, per velocizzare, diciamo, l'iter, appunto, i propri iter, utilizza spesso questi provvedimenti amministrativi, che sono più veloci rispetto ai procedimenti penali. E dunque, sì, no, niente, diciamo che storicamente, sempre parlando dal punto di vista storico, E nel 1988 è stato soppresso l'istituto della diffida. Prima c'era la diffida, che era, però aveva delle coloriture più, un po' più pesanti, ancora più pesanti dell'avviso orale, e al suo posto è stato introdotto appunto l'avviso orale. Entrambi, comunque, l'istituto della diffida e l'avviso orale hanno questa cosa alla base, insomma, questa faccenda della pericolosità sociale, e perciò ci sono tutta una serie di leggendo insomma le carte, tutta una serie di così consigli, tipo cercarsi un lavoro, stabilire una dimora e, insomma, stabile, non frequentare, insomma, dei consigli, diciamo, di buone condotte, ecco. E questo, quindi, insomma, chiaramente da parte nostra va tutta la solidarietà a tutte le compagne e compagni colpiti, non solo dalla visorale, ma anche da questo procedimento, da questa inchiesta. E continueremo, insomma, a dare informazioni, ad aggiornare su come evolve la situazione. E naturalmente questi procedimenti non fermano assolutamente la solidarietà verso i prigionieri, i nostri prigionieri e i nostri compagni, Stecco in primis. Sì, e poi appunto vorrei dare qualche aggiornamento sulla situazione, su ciò che è successo nel mese di aprile al CPR di Gradisca di Sonzo. Intanto ci sono state delle rivolte, delle proteste forti, insomma, con lancio di cibo avariato nei corridoi, 2 giorni anche di sciopero della fame appunto per protestare contro questo trattamento insomma che subiscono i prigionieri. C'è stata un'evasione di 9 persone, delle quali solo una è sfuggita però alla ricattura. E poi appunto il 10 di aprile nello specifico c'è stata una grande rivolta che è stata provocata dal tentativo della cooperativa Echene, gestore del campo di internamento, e appunto la cooperativa Echene voleva installare delle barre metalliche al soffitto della parte esterna delle celle, quindi una roba sì, richiudere ulteriormente diciamo la gabbia, e quindi c'è stata questa grande rivolta con letti incendiati, hanno distrutto i plexiglass e anche per una volta uno sbirro è andato, insomma si è fatto male lui e non insomma, e non solamente i prigionieri come di solito succede purtroppo. E poi a fine mese, il 28 di aprile, c'è stato di nuovo un altro tentativo di fuga, questa volta 8 prigionieri, 3 dei quali sono riusciti a fuggire. Uno invece si è fatto male cadendo dal muro di cinta e si è stato portato all'ospedale, e 4 hanno, sì, insomma, dopo aver resistito sul tetto per un po', hanno dovuto poi, insomma, sono stati riportati in cella dalle guardie. E per dire che, insomma, la situazione è veramente in continua evoluzione. E tra l'altro vale la pena di ricordare anche che c'è il 26 di aprile c'è stato la seconda udienza del processo per la morte di Vakhtang Enukhidze, questo prigioniero georgiano che era stato ammazzato appunto secondo le testimonianze di altri prigionieri a botte da 8 agenti nella sua cella al CPR, presso il CPR appunto di Gradiska. E in questa seconda udienza, insomma, praticamente ha testimoniato un poliziotto. Il poliziotto che aveva coordinato le indagini all'epoca della morte di Vakhtang, e lui, insomma, in questa udienza appunto tira fuori dal cilindro il pestaggio che sarebbe avvenuto, quindi non nega il pestaggio ma dice che il pestaggio è avvenuto non nel CPR ma in carcere a Gorizia, in quanto il Vakhtang era stato portato dal CPR al carcere, poi dal carcere di nuovo al CPR. E sì, come dire appunto che è normale, visto che è normale che nelle carceri si pestino i prigionieri fino anche a conseguenze letali, questa potrebbe essere un'ipotesi diciamo realistica anche per gli sbirri. E ecco, questo insomma questo per come aggiornamento anche sulla situazione dei campi per migranti di Gradiska. E stiamo ascoltando in sottofondo questa band trentina, i Congegno, band che si era formata all'incirca attorno al 2010, e ci stiamo ascoltando questo loro album Metamorfosi, Congegno dal Trento. Buonasera a tutti, è veramente con piacere che mi ritrovo di nuovo davanti al microfono qui negli studi di via Volturno 29 a Udine per questa puntata del 9 maggio di Zardins Magnetics. Quindi andiamo avanti con il percorso di questa puntata. Abbiamo come prossimo, diciamo, blocco una questione che riguarda l'essere tutti noi, anche chi vi parla, tutti, insomma, voi che ascoltate, tutti noi un po', come si dice, nella stessa barca, ovvero teoricamente si sa, o meglio, tutte le teorie, diciamo così, di proposte, prospettive rivoluzionarie hanno come sottinteso, diciamo come implicito, un soggetto, e saremmo noi, e poi ci sono loro, tutto il resto, escluso noi. Questa condizione è sempre più negli anni è andata dissolvendosi, sfibrandosi, come me anche voi, diciamo, sopravvivete in questo esistente, condividete tantissime complicità che vengono richieste, pagate le imposte anche se non lo volete, e quindi alimentate le casse e il progetto dello Stato, consumate merci, sopportiamo l'ambiente, un ambiente invadente, artificiale, in cui siamo immersi ormai, per molti, insomma, di voi che ascoltate, questo può essere, cioè, potete dire, dalla nascita. Non avete esperienza, molti di voi non avete avuto esperienza del mondo che c'era prima. Il mondo che c'era prima, noi vogliamo andare alla ricerca di questo mondo, siamo alla ricerca di un talismano. Praticamente i talismani sono quelle, chi ci crede, ma anche chi non lo dice, diciamo, ci crede lo stesso, si attaccano a questi certi oggetti che ritengono, oggetti possono essere anche però in senso lato anche situazioni, persone addirittura, che ritengono, diciamo, che favoriscano l'andar bene di un percorso, di un qualcosa, ecco, di una mettersi in gioco che vada bene. Questo è un talismano, no? Un portafortuna, potremmo dire, o meglio, in parte allontana anche le calamità, ecco, allontana la possibilità che le cose vadano male. Ci proponiamo di andare alla ricerca di questi talismani. Questi talismani scopriamo che coincidono spesso con, insomma, per noi, dicevo prima, in una situazione appunto del prima di questo così di questa deriva, di questa situazione, appunto, possiamo dire, non so, ecco, riassumendo anche marcia, ecco, una situazione senza prospettive di sopportazione e di anche di fare il callo alla sopportazione, di neanche più girarsi e di sopportare, andare avanti non si sa dove. Allora, dicevamo, che è esistito questo, ecco, sì, siamo davanti a un crollo, no? Abbiamo detto prima, sta crollando, tra l'altro, questo mondo dove noi siamo immersi, stiamo a galla così fino dentro il collo in questa situazione di, l'ho già detto, insomma, di nocività, di anche psicologicamente pesante, insomma, di, oltre che di noia, anche di, insomma, di sfiga, possiamo dire. Sta andando verso, sempre più verso un crollo, e vorremmo, cioè, fare il possibile per non, e anche l'impossibile per non crollare anche noi. Quindi, per cercare questo talismano e questa situazione del prima, dobbiamo andare appunto alla ricerca di alcuni passaggi, storici e di alcune, e di anche di, insomma, arrivare a un dunque che vedremo quale sarà, insomma, di questa ricerca. Una delle disgrazie di questo tempo è che la repressione sociale obbliga le contraddizioni della coscienza individuale a immiserirsi in mancanza del loro dispiegamento in una esperienza vivente e a soddisfarsi di miserabili sostituti e compensazioni. Queste contraddizioni non sono del tutto riducibili alle forme di coscienza storicamente prodotte, poiché ciò che è percepito ed espresso attraverso di esse in modo più o meno felice, e cioè oggi in modo molto infelice, è l'esperienza umana universale del trascorrere della vita e del rifiuto di quel trascorrere. Da questo punto di vista si può dire che non soltanto nella storia vi erano altre possibilità, ma che la storia stessa, come l'Europa, l'ha imposta al resto del mondo. Era solo una possibilità tra altre e, fino a prova contraria, non necessariamente la migliore. Una società tradizionale offriva senza dubbio migliori condizioni di realizzazione di sé di quanto non ne offra oggi questa società parzialmente storica, che lo è sufficientemente per precipitare tutto nella sventura e non abbastanza da scegliere coscientemente i suoi mezzi. La sola ragione storica possibile, e non solo per ispirare la redazione di un'enciclopedia, è quella che l'attività di una società libera può fondare, distruggendo nella sua pratica tutto ciò che le si oppone, sottomettendo tutto al dialogo degli individui associati. E su questo terreno, sbarazzato dai fantasmi generati dalla paura, potranno dispiegarsi razionalmente e poeticamente, e quindi anche rinnovarsi, le aspirazioni che fanno parte del versante antistorico della coscienza, oggi ridotte all'impotente parodia dell'occultismo e di ogni sorta di neo-stregoneria. Questo progetto rivoluzionario che assilla la storia moderna resta il solo degno di essere difeso. Ecco, allora, abbiamo letto uno stralcio. Questo era il discorso preliminare dell'Enciclopedia delle Nocività. Se vi ricordate, una vecchia puntata tempo fa, insomma non tanto vecchia, ma tempo fa, abbiamo già provato a approcciarci a questo, a questa proposta. Era un progetto diciamo di rivista che si è sviluppato negli anni 90. Diciamo uno dei promotori era Jaime Semprun, che tra l'altro è scomparso improvvisamente proprio nel 2010, lo stesso anno dell'album degli Congegno di prima. Comunque, al di là di quello, Jaime Semprun aveva partecipato al movimento della critica radicale negli anni 70 ed era della generazione, appunto, diciamo oggi avrebbe 75 anni e qualcosa del genere. Allora, questo brano, questo che abbiamo letto adesso, quindi dice: perché vogliamo riproporre il progetto di un'enciclopedia? Diderot e i soci, appunto, avevano un progetto razionalista di esposizione di tutte le possibilità del sapere per uscire, appunto, dal buio dei secoli precedenti, ecco, e affrontare, insomma, una nuova epoca in cui, appunto, rompere le catene delle credenze così irrazionali. Tutto questo, appunto, ha avuto una sua parabola. E oggi sembrerebbe, cioè oggi, in quegli anni, negli anni 90, sembrava, appunto, che tutte le spinte in questo senso, in primis, appunto, il soggetto rivoluzionario, no? Tutto il movimento che era portato, insomma, fino al 68, diciamo, alla rivolta del 68, tutte quelle credenze lì erano crollate, se c'era un grande riflusso verso, appunto, addirittura pensieri magici, il pensiero magico, no? Antimodernismo, eccetera, eccetera. Quindi, secondo gli estensori dell'Enciclopedia delle Nocività, invece, andava proprio partendo da un'esposizione di tutte le, appunto, le nocività, di tutte quelle tutti quegli aspetti che rendono la vita insopportabile, la vita di oggi, e che la rendono, appunto, anzi, l'esperienza proprio della vita la rendono indesiderabile di essere appunto trascorsa, attraverso questa esposizione, distruggendo nella sua pratica tutto ciò che si oppone alla possibilità, appunto, di altro. Lui dice: è un assillo questo di tutta la storia moderna, e che resta degno di essere difeso, va aggiornato, non va, diciamo, buttato via tutto questo, quello che è stato. Ve lo dico, appunto, adesso semplificando, perché siamo in radio. Sì, sono, sì, una grande, si aprono molte questioni, no? Qui, quindi c'è questo passaggio, questo tornante storico, no? Questo rimbalzo indietro dopo, appunto, la grande spinta che è arrivata dal 68, poi agli anni, in Italia negli anni 70, in Francia si è fermato immediatamente, è arrivato subito il riflusso, però c'è stato sia in Francia sia in Italia, per non parlare del resto. Si va così a fare una disamina, un po' di cercare quale può essere, appunto, un punto di discontinuità. Si trova questo fatto che, partendo, appunto, dal situazionismo, che aveva, volendo, anche anticipato certe così prospettive su quello che era l'esistenza e la sua insopportabilità, e trovato anche delle vie di uscita che erano, appunto, dei recuperi in pratica dei recuperi dalle avanguardie, no? Dalle avanguardie artistiche, preso atto, appunto, che il soggetto rivoluzionario, diciamo, come classe operaia, non era più, anzi era un, sì, non era più, diciamo, praticabile alla svolta, diciamo, del primo conflitto mondiale. Si viene ereditato in qualche maniera questa esperienza delle avanguardie, che sono il futurismo, i surrealisti, che per arrivare al lettrismo, insomma, erano quella sperimentazione artistica che non era più non aveva più quell'efficacia che le deriva o dalla tradizione o dalla autorità delle scienze esatte, come era stato in passato, ma dove, appunto, l'espressione formale artistica di queste avanguardie era anche un mezzo d'azione, cioè dove si portava, appunto, sul campo l'efficacia di questo messa, diciamo, in opera. Quindi gli situazionisti inglobano questa esperienza delle avanguardie artistiche, e arrivano al però a un certo momento inevitabilmente rallentano, perché non fanno altro che appunto sovraccaricare di senso la possibilità appunto di provare come un'esperienza immediata nella realtà questa appunto possibilità di creativa, questa possibilità di nuovi tipi di relazione, nuovi tipi di legami, nuovi tipi di rapporti con lo spazio, col territorio. Questo tentativo viene sovraccaricato e si ferma appunto all'immediato, anche in un certo senso si ferma all'immediato. Ecco, questo qua è un problema. I situazionisti alla fine, l'internazionale situazionista alla fine, cessa il proprio percorso, e con questo bisogna fare i conti. Mandiamo però adesso un qualche minuto di musica. Allora, anche se in maniera confusa, abbiamo detto questi due o tre concetti. Praticamente siamo un tornante storico perché? Perché oggi le forze produttive, contrariamente a quello che era stato fino agli anni, diciamo, del scoppio, insomma, del consumismo, gli anni 60-70, le forze produttive vengono mobilitate dalle classi privilegiate e dagli stati per rendere irreversibile l'espropriazione e il saccheggio. Cioè vogliono fare in modo questi, diciamo, entità che sono le classi privilegiate e gli stati, vogliono fare in modo che le forze produttive tendano verso un futuro in cui il mondo non è più ribaltabile in altre direzioni che quella in cui sta andando. Cioè, appunto, come abbiamo detto altre volte, ecco, questa cosa qua. E allora il compito dei rivoluzionari è provare a lasciare aperte le possibilità di cambiamento. Un altro contributo dell'enciclopedia delle nocività, di sempre degli anni di cui stiamo trattando, 92-93, si rifà a un'opera di Bertolt Brecht che si chiamava Dialoghi di profughi, e diciamo, immagina di continuare quel dialogo, e si chiama Dialoghi sul compimento dei tempi moderni. Adesso andiamo a leggerne qualche brano, poi magari lo commentiamo. Lei pensa dunque che noi viviamo dopo l'esplosione e che tutto è perduto? Può darsi che non tutto sia perduto, ma sicuramente viviamo dopo l'esplosione, come dice lei. La volontà di trasformare la società esistente non trova più il suo punto di appoggio. È seppellito sempre più profondamente sotto le macerie regolarmente ammassate da più di mezzo secolo. Come diceva un polacco che la sapeva lunga, ci sono delle conseguenze che anno dopo anno producono in abbondanza nuove cause. Ci sono sempre dei poveri, degli oppressi, degli infelici. Sono l'immensa maggioranza. Hanno almeno altrettanti motivi di prima per cercare di trasformare il mondo. E possono appoggiarsi sui tentativi di chi li ha preceduti. Sì, ma ancora una volta, su cosa appoggiavano, senza dubbio troppo pigramente, i tentativi dei loro predecessori? Sul fatto che dal Rinascimento in poi, dopo l'inizio di ciò che chiamiamo i tempi moderni, il progresso, questo risultato dell'attività collettiva, non voluto in particolare da nessuno, sembrava... Ma cosa la fa ridere? È il modo in cui cambia voce per pronunciare la parola progresso, come se voleste far sentire le virgolette. Più o meno, quando si usano certe parole, viene voglia di far capire che pronunciandole ci si tappa mentalmente il naso. Le speranze degli oppressi si basavano sulla condizione di nuotare nel senso della corrente. Non bisogna essere particolarmente portati alla critica per accorgersi che l'affrancamento portato dall'epoca borghese è affondato in un'assurdità irrimediabile. Ogni progresso sembra profondamente viziato e, come regola generale, tutto ciò che dovrebbe facilitare la vita invece la divora. L'idea che il processo storico iniziato nel Rinascimento possa conoscere un risultato felice è tanto discreditata che si può dire che i tempi moderni hanno raggiunto il loro punto di perfezione, essendo la perfezione precisamente la qualità di ciò che non può essere migliorato. I tempi moderni sono dunque finiti, erano cominciati nelle città e terminano con loro. Finito, ecco una parola dialettica, insieme, che ha raggiunto la perfezione e che ha toccato il suo limite. Può aggiungere agli altri anche il senso dare il colpo di grazia, come in Si finiscono così i cavalli. Le voci corrispondevano, la voce femminile a Kalle e la voce maschile a Ziffel. Ziffel è un fisico, Kalle è un diciamo militante di base, tedeschi, appunto profughi dalla Germania in fuga verso, diciamo, specificamente la Finlandia. Questa era l'ambientazione dei dialoghi di profughi di Brecht. Semprun li riprende, appunto, sono passati dei decenni dalla fine, anzi è finita la guerra, è passato il dopoguerra, si ritrovano appunto al giorno d'oggi, sarebbero 40 anni dopo la fine della guerra, circa 30 anni fa, e fanno un po' il bilancio. Insomma, lo stile di Brecht era quello, diciamo, tra la spiritosaggine e anche la spietatezza, no? L'analisi anche. Quello appunto di Semprun, tentato da Semprun, è un diciamo un mettere in scena anche la situazione di scacco, ecco, di certe tendenze, in specifico quello della critica radicale, di cui abbiamo parlato altre volte, ecco, di quella corrente, ecco, attiva sia in Italia sia in Francia, ecco, che riprendeva certi spunti sia della sinistra comunista sia del movimento anarchico, sia appunto poi le mescolava con appunto novità dell'avanguardia artistiche, per arrivare appunto a fare un po' in bilancio. E sì, e la critica, sì, va bene dell'idea di progresso e delle forze produttive, però un'altra cosa appunto molto molto, se vogliamo, anche pratica, non so, empirica, ecco, una proposta saggia, e va bene, la produzione va criticata, dobbiamo essere contro la produzione, però non è che si può sospendere del tutto la produzione, cioè non si può proporre, cioè i rivoluzionari non possono esplicitare distruggiamo la produzione, perché un qualche sistema per produrre i beni bisogna trovarlo, non ovviamente diciamo, imitando il sistema devastante di produzione capitalistico, in qualche maniera la produzione di cose, cioè di beni utili, diciamo, cose utili, va cercata, va teorizzata, insomma, non bisogna abbandonare questa via, ecco. E diceva, cosa abbiamo detto? Riprendiamo i tempi moderni sono finiti. Erano cominciati nelle città e terminano con loro. Allora, le città, avevamo messo nella promozione anche il discorso della città che più veloce d'un cuore cambia la forma, no? Era una delle poesie raccolte nei Fiori del Male di Baudelaire, Il Cigno era, e dove appunto Baudelaire volge lo sguardo a quella Parigi che è sparita, quelle baracche, i fusti, i capitelli, l'erba, i massi, le pozze che inverdiscono, i massi, eccetera, eccetera, che stanno scomparendo, la sparizione di certi luoghi, di certi così paesaggi cui si è anche legati, cui si appunto prova anche affetto. Pensiamo una cosa anche banale. Siamo nei giorni, diciamo, attorno all'anniversario di quello che è stato qui in Friuli, il terremoto. È semplice, è un'esperienza per chi l'ha vissuta molto semplice, pensare cos'era il Friuli prima e cosa è stato subito dopo e cosa poi è diventato in seguito. Era un mondo, diciamo, costruito a mano, ecco, era un mondo tutto intero reso alla sua disponibilità, sottratto alle requisizioni dell'industria. Erano paesaggi che sono esistiti, paesaggi di promesse, villaggi dove ogni casa sul ripido pendio sistemava il suo labirinto rudimentale, eccetera, eccetera. Cortili, c'erano le scale, c'erano le terrazze. Non c'erano arredi urbani, no? Erano righe, queste erano sempre righe di Semprun che raccolse i suoi compagni, i suoi amici, i suoi affetti hanno raccolto questi ultimi scritti per fare un omaggio appunto l'indomani della sua scomparsa nel 2010. È stato parzialmente tradotto, poi metteremo i riferimenti, appunto dove prendeva dal un pittore di cui però io adesso onestamente non so dirvi, insomma, comunque quello che viene ritratto in certi tipi di così di arte di visiva. È uno scorcio di questo mondo, e questo mondo è importante perché comunque è un mondo da cui partire anche per criticarlo, ma che è un mondo effettivamente che non c'è più, è scomparso, come abbiamo fatto adesso l'esempio del Friuli pre-terremoto, ma insomma vale la stessa cosa. Insomma, ognuno di voi adesso può fare, ognuna di voi può fare, insomma, andare in autonomia a farsi le proprie viaggi nei paesaggi che ci sono stati sottratti. E io avrei per questa sera qua, io direi che possiamo fermarci, perché comunque le cose che abbiamo detto sono anche, abbiamo messo tanta carne al fuoco, forse anche troppa, e ci dà comunque, ci sarà senz'altro uno spazio e un tempo per proseguire tutto questo, ecco. senso contrario ostinato al passo dell'uomo in senso contrario. Sì, io volevo finire così questa, questo Zardins di oggi con una dedica alle prigioniere del carcere femminile del Coroneo a Trieste. Allora, lo scorso sabato, il 4 di maggio, abbiamo fatto un presidio musicale, insomma, anche parlato, ma anche musicale, e davanti al carcere, appunto, eravamo proprio posizionati davanti alla sezione femminile, ed è stato un bel pomeriggio perché c'è stata molta vivacità da parte delle giovanissime detenute, che insomma hanno risposto in maniera molto così appassionata facendo richieste anche musicali, restando in dialogo, insomma, e appunto pensando a loro volevo leggere un breve racconto di Jean Weir nella sua esperienza del carcere in Italia e anche insomma la sua esperienza di atti di solidarietà nei suoi confronti da parte appunto delle altre detenute. Non entri in prigione dicendo wow, un mucchio di persone rinchiuse, questo è un terreno fertile per la ribellione, andiamo. Innanzitutto la maggior parte della gente ha un sacco di problemi e semplicemente non è interessata a sapere come tu ti definisci. E personalmente non cercherei di farlo in altro modo che nella mia maniera di relazionarmi nei loro confronti e nei confronti di quello che ci circonda, anche se in alcune carceri c'erano delle politiche che erano a conoscenza del nostro caso. È una cosa diversa, penso che nel corso normale degli eventi, quando sei in prigione, il tuo compito sia quello di riconoscere di essere prigioniero e continuare a vivere la tua vita in condizioni diverse, cercando di contribuire ad alzare il tono di quella che spesso può essere una realtà abbastanza squallida. La maggior parte delle donne dentro sono in una situazione ben peggiore della nostra. Molte hanno dei bambini, qualche volta a migliaia di chilometri di distanza, e si preoccupano per loro per tutto il giorno. Noi siamo privilegiate perché abbiamo compagni, solidarietà, eccellenti avvocati che spesso sono anch'essi dei compagni. Detto questo, è stata una bella esperienza incontrare così tante persone differenti e pazze che non avrei mai incontrato altrimenti, a causa di scelte personali e di tutti i ghetti in cui noi, feccia dell'umanità, siamo divisi. Zingare, drogate, assassine, leader storiche di una volta, prostitute, piccole spacciatrici, eccetera. Ho vissuto momenti intensi e a volte divertenti, non fraintendetemi. Il carcere non è stato il miglior periodo della mia vita, ma quando un certo numero di esseri umani molto particolari sono costretti, contro la loro volontà, a coabitare e riescono a stare insieme sulla base di questo denominatore comune e a volte semplicemente ad essere se stessi, con le loro squisite idiosincrasie, avviene una specie di strana alchimia che trascende ogni muro e diventa un vero momento di libertà e una minaccia per lo status quo del carcere. Parlando di solidarietà, Jean precedentemente in questo libretto diceva che quando si trovava in carcere a Trento e le arrivavano per posta le riviste, i volantini, la stampa anarchica, e diceva che ai secondini tremavano letteralmente le mani quando ricevevano queste cose perché non erano abituati. E siamo negli anni 90. E lei appunto racconta questa esempio indimenticabile di solidarietà da parte delle altre detenute. Come ho detto, ricevevo molta posta che non era ufficialmente censurata, fra cui la collezione completa di Cane Nero ed una buona quantità di vecchi numeri della rivista anarchica italiana Provocazione, che usciva negli anni 80. Ad opera, in seguito a una perquisizione di routine, queste riviste mi furono portate via dalla cella, con poche deboli scuse come rischio d'incendio oppure ottenute illegalmente, eccetera. Era evidentemente il loro contenuto a non essere per niente apprezzato da quelli che vi si erano imbattuti. Ero furiosa e chiesi che mi fossero restituite le mie riviste. Chiunque sia stato in carcere sa che non vi è un qualcosa come domanda e risposta e che anche la richiesta più insignificante, come il permesso di comprare un paio di calzini, deve passare per un iter che può richiedere settimane. Io non volevo aspettare e, per farla breve, finì con l'improvvisare una protesta col semplice rifiuto di rientrare dal cortile ed essere rinchiusa in cella dopo la passeggiata. Il risultato immediato di ciò fu che riuscì ad ottenere un colloquio col maresciallo della prigione per uomini. Alla fine mi furono restituite le riviste e l'odiato capo secondino in carica alla sezione femminile sparì dalla circolazione per qualche settimana. Un sollievo per tutte. Il secondo risultato fu che il lunedì mattina fui scortata in una specie di tribunale interno, presieduto dal direttore della prigione e alla presenza di secondini, sbirri, psicologi, eccetera. Il verdetto: colpevole di insubordinazione. La punizione: 2 settimane nella cella di rigore. Ciò fu uno shock per tutte nella sezione, anche per quelle che erano dentro da quasi 20 anni. Le rare punizioni ad opera erano di 2 o 3 giorni. Dopo essere stata controllata dal medico che certificò che potevo sopportare la sentenza, il medico ha sempre l'ultima parola, anche nel braccio della morte, fui portata giù ai blocchi di isolamento per esservi rinchiusa 22 ore al giorno, con i soliti oggetti essenziali, le mie riviste anarchiche, mi assicurai di averle, un paio di libri, un dizionario e una piccola radio. Alcuni secondini furono incaricati di stare seduti dall'altro lato del blindo e scrutarmi attraverso lo spioncino e farmi uscire per la passeggiata in un giardinetto piccolo e squallido, 1 ora al mattino e 1 ora al pomeriggio. Chiunque mi avesse parlato avrebbe ricevuto una punizione simile. Dopo aver passato la maggior parte della notte in una guerra contro le zanzare, era metà agosto con 40 gradi, mi svegliai al rumore di un numero rap proprio davanti alla mia finestra. Sbirciando fuori potei vedere le ragazze che lavoravano nel giardino di sotto, che ballavano in fila fra le piante rappando. Che figata! Poi quando uscii per l'aria, tutte le donne della sezione erano alle finestre cantando a squarciagola un intero repertorio di canzoni d'amore e di lotta. Il casino era tale che i secondini dovettero portarmi via da quello sporco cortiletto verso i campi sportivi per la passeggiata 2 volte al giorno. Per il resto basti dire che per tutta la durata dell'isolamento tutto il cibo del carcere finiva nel cesso, visto che ricevevo un rifornimento costante di cibo fresco, caffè caldo, eccetera, grazie all'astuzia e alla creatività di cui solo chi è rinchiuso, suo malgrado, è capace, sotto il naso delle spie in uniforme, fuori dalla cella e dalle guardie armate che fanno la ronda intorno alle mura. Finite le 2 settimane di isolamento, ci fu una grande festa nella sezione. Bene, sfumiamo questo brano e così anche vi presento tutti i brani che abbiamo ascoltato negli ultimi tre quarti d'ora. Posso dirvi che l'ultimo brano che abbiamo ascoltato erano i Lud, band trentina, però noi abbiamo fatto ascoltare quasi una decina di brani in sottofondo, anche tra un intervento e l'altro, che c'è abbastanza difficile risalire alle band, perché tutti questi brani sono tratti da una compilation, un doppio LP contenente pure la versione in CD all'interno, e noi ovviamente per comodità, così nel maneggiare tutti i dischi, abbiamo portato i CD e ci siamo accorti che tutti i brani sono stampati all'interno del CD, quindi un po' così a memoria. Sappiamo chi sono i gruppi, ma evitiamo di fare errori madornali. Vi posso solo garantire che erano i Lud, quelli prima di questi, va bene? E poi anche prima ancora dei tre quarti d'ora abbiamo ascoltato i Misfits, band non so definirla garage punk, nata alla fine degli anni 70. Loro si definiscono horror punk. E vabbè, comunque si trattava anche quello di un disco che raccoglieva tutti i loro 7 pollici usciti tra il 77 e l'84. E così, nel dirvi questo, siamo anche giunti al termine della trasmissione, che è Zardins Magnetics, che vi ricordo in diretta radiofonica ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30. Il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Altra cosa da dirvi, vabbè, a parte che Radio De Furlane trasmette da Udine, oggi è giovedì 9 maggio, e che se volete contattarci potete farlo scrivendo alla casella postale Associazione senza, intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Potete anche scriverci tramite posta elettronica intestando a liberetutti@autistiche.org. Vi ricordo anche che potete riascoltare questa trasmissione, che si chiama cioè sul blog, che è zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. oltre alla puntata odierna potete ascoltare anche tutte quelle passate. Poi, mentre parlo, mi è venuto in mente che non vi ho detto il titolo della compilation del doppio LP e doppio CD, che si chiama Non un sasso indietro, ed è era un'uscita benefit, ovviamente, che appoggiava le lotte NOTAV, ed era uscito nel 2014. Poi è uscita pure un secondo volume di questa compilation, Non un sasso indietro. Bene, altra cosa, vi salutiamo tutti e salutiamo anche chi ci ascolta domani venerdì in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Adesso vi lascio con forse un brano o due, vediamo qua come va a concludersi, da questa band statunitense, e loro sono gli Hellshock, direttamente da Portland, e questo è il loro album datato 2003 che si chiama Only the Dead Know the End of War. Ciao a tutti e al prossimo giovedì.